Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È uno specchio, uno scudo, un confine, un foglio su cui ogni giorno scriviamo la nostra vita, il biglietto da visita che a prima vista racconta dove viviamo, che professione svolgiamo, se stiamo bene fisicamente, psicologicamente. Buongiorno da Nicoletta, oggi parliamo di pelle. La pelle è tutto questo, ma è anche molto di più. È un organo vitale, è indispensabile. Si può vivere senza vedere, senza sentire, senza odorato, ma senza l'integrità della maggior parte della pelle non si può sopravvivere. Quindi è molto preziosa, impariamo a conoscerla iniziando ad osservarla con più attenzione e ad occuparcene con maggiore tenerezza, accettando le piccole imperfezioni e le sue fragilità. Mi dà molto fastidio l'acne. Guardi, io a parte il viso, per fortuna ho una pelle, non mi posso lamentare, ho fatto a gravidanza, quindi tutto a posto. La pelle è grassa. Dovrei avere 40 anni meno per avere una pelle diversa, ormai mi devo tenere quella che ho. E metto un pochino di crema, ma non mi faccio tutti quei pasticciamenti. No, tirare no, di certo, è una cosa assurda. Non sono uno che si cura, che è attento a queste robe, quindi... Ah, ecco questo, che mi si screpolano spesso le mani d'inverno. Non metto creme perché non mi piace. Salviamoci la pelle. Sì, salviamoci la pelle, partiamo da qui, proviamo a osservarla un po' come faremo con un tessuto prezioso. Com'è? Liscia, secca, ruvida? Quali sono le zone in cui è più sensibile? Le mani, il viso, le pieghe, il collo? 800 24 00 24 per raccontare pregi e difetti di questo abito in cui viviamo a stretto contatto per tutta la vita, che cresce e si modifica con noi. E allora, come farebbe un sarto, prendiamo le misure? Questa è la domanda di oggi, una domanda tripla se vogliamo. Dovete dirmi quanto è estesa, qual è il suo peso totale e il suo spessore. Quando parlo di peso totale mi riferisco ad un adulto normopeso e intendendo per pelle l'epidermide, il derma e il grasso. Questa è una precisazione che è doverosa, e voglio salutarvi subito il nostro ospite, il professor Giuseppe Monfrecola, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professor Monfrecola, io credo che la pelle, come il cervello, sia un organo multitasking, perché riesce a fare contemporaneamente più cose. Alcune le diamo per scontate, alcune forse non le conosciamo neanche. Sì, è verissimo, la cute ha svariate, tantissime funzioni, ne scopriamo sempre di più. Faccio un esempio, la funzione termoregolatrice, la conosciamo tutti, noi abbiamo dei termorecettori, c'è qualche cosa che trasmette al cervello la temperatura esterna, il cervello poi a sua volta attiva altre cose che ci permettono di contrastare l'abbassamento e l'innalzamento di temperatura, non so, segnala le ghiandole sudoripare di produrre qualche cosa, perché così ci bagniamo la pelle, ci raffreddiamo, o ai vasi sanguigni di fare costringere o dilatarsi in maniera tale da portare più o meno sangue alla pelle. La cute ha una funzione di deposito e metabolica, il tessuto adiposo per esempio. Pensavamo prima che il grasso fosse soltanto un deposito di energia, in realtà è un organo che metabolizza ormoni per esempio. C'è la funzione endocrina, per esempio noi sintetizziamo vitamina D quando ci esponiamo al sole, questo lo sappiamo un po' tutti, ma per esempio la cute metabolizza anche gli ormoni che noi chiamiamo steroidi, gli ormoni sessuali per esempio, ha una funzione sensoriale. Tocchiamo le cose, le sentiamo, le percepiamo, il bambino porta alle labbra qualcosa perché il primo organo di senso sono le labbra, sentiamo il dolore, il calore, il freddo. Abbiamo una funzione secretoria, sudore, sebo, per esempio i pigmenti, perché diventiamo più scuri. E poi mi faccia dire la cosa più bella, più importante, strepitoso organo immunitario, la pelle, e questo non ci meraviglia, la cute è l'organo di confine col mondo certo. Esterno e quindi è deputata alle difese, e infine che cosa fa? È qualche cosa che ci protegge dalle aggressioni meccaniche, fisiche, il calore, il freddo, oppure biotiche, per esempio i batteri, i virus, i funghi, e poi alla fine c'è un film idrolipidico, c'è uno strato corneo che ci proteggono, e questa è la funzione barriera, quella che ci permette di frapporci al mondo esterno. E professore, a proposito di funzione barriera, in questi giorni di grande freddo la pelle ha fatto gli straordinari e in alcuni casi mostra un po' il fianco. L'abbiamo sentito nel nostro breve sondaggio, proprio l'ascoltatore, l'intervistato finale diceva: ho le mani screpolate, ma non sono solo quelle, naturalmente le parti più esposte si arrossano, si screpolano, diventano anche doloranti. Freddo, e parliamo anche di un freddo di questi giorni, quello con la neve per intenderci, cioè un freddo secco, e quindi la cute si disidrata. Lei ha giustamente accennato agli aspetti che la pelle si altera, perché la parte esterna, lo strato corneo, è come un pavimento di mattonelle. Ora immaginiamo che queste mattonelle si scollino l'una dall'altra. Ecco, e che cosa succede? Che il pavimento non è più impermeabile, e noi, sai, in dermatologia possiamo anche misurare la capacità, cioè la disidratazione della pelle con degli strumenti che sono dedicati. Ora è evidente che il problema della disidratazione è tanto maggiore quanto più le aree sono scoperte, perché ci sono anche delle difese naturali, il sebo per esempio. Una persona con pelle grassa del viso in qualche maniera è più protetta, ma le mani no, perché le mani non hanno sebo, e allora le mani sono scoperte, e quindi ecco che poi le mani dimostrano maggiormente questo disagio. Naturalmente questo dipende anche dall'età, noi sappiamo tutti che più avanti andiamo avanti con l'età, meno la pelle è idratata, quindi anche questo è un qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare. Allora, che cosa fare? Certo possiamo proteggere con gli indumenti, ma poi dobbiamo idratare. Allora, per piacere, non idratate le mani quando già avete il problema, cercate di idratarle prima. Di casa e ripetere, e poi ancora vi lavate le mani, fate benissimo, e questa è una regola igienica importantissima, ma attenzione, perché ogni lavaggio porta via con lo sporco anche qualche cosa che ci serve, quindi dopo il lavaggio riidratare ancora e lavare con saponi dedicati, cioè saponi che non vadano a influenzare in negativo quel film idrolipidico cosiddetto, cioè quella sorta di untuosità che in qualche maniera ci dà una protezione, quindi questo è fondamentale in questo periodo. Ricordo le domande di oggi, perché me lo state chiedendo al 349-238-6666, dovete rispondere a questo triplice quesito: quanto è stesa la pelle, qual è il suo peso totale, il suo spessore. Al primo ascoltatore che ci risponde, che ci chiama in diretta all'800-24-0024 con i tre dati corretti, faremo ricevere a casa cosmetici naturali fai da te, tecniche nuove. E intanto abbiamo in linea con noi Luigi da Pavia e Doriana da Roma. Luigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la sua missione. Ascolti, io volevo chiederle una cosa al dottore. Allora, io lavoro 365 giorni, senso, tranne vabbè i festivi così, all'esterno, perché sì, lavoro in un'azienda agricola. Con i freddi di questi giorni mi sono, diciamo, rotte le mani. Sì. Uso alla sera dopo la doccia crema a base di glicerina. Però non riesco a capire perché non, cioè sì, vabbè, trovo un pochino di sollievo, però non trovo una conclusione, ecco. Ha le mani spaccate dal freddo, Luigi. Sentiamo Doriana. Buongiorno Doriana da Roma, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io invece volevo fare un'altra domanda al professore, proprio a proposito di donne. Visto che lui ha detto che in qualche modo la pelle è una sorta di scudo anche verso l'esterno, sì, e che quindi protegge ciò che può entrare, l'efficacia delle creme, soprattutto quelle antirughe o che, diciamo, in qualche modo contrastano l'avanzamento dell'età, in che percentuale penetrano? Cioè, come possiamo fidarci di queste creme al fine che siano più efficaci possibili? Grazie Doriana, bellissima domanda. Intanto, professor Monfrecola, se vogliamo, queste domande sono un po' legate tra di loro, anche se l'obiettivo e la richiesta sono differenti. Luigi ci chiedeva un'indicazione per le sue mani, utilizza un particolare tipo di crema, ma evidentemente questa crema non fa effetto. Perché? Allora, perché ci sono due problemi fondamentalmente, uno di carattere pratico. Il nostro radioascoltatore ha detto che lui di sera mette queste cose, e cioè le mette per cercare di correggere un danno che già è sopravvenuto. Allora ritorniamo a quello che si è detto prima: i prodotti andrebbero messi prima e durante e poi anche dopo. Ancora un'altra cosa, è una crema che contiene soltanto glicerina, direi forse un po' pochino, perché ci sono invece attualmente, sono state ben studiate, delle creme o delle emulsioni, per meglio precisare, che contengono più fattori che sono in grado non solo di occludere la pelle, quindi di cercare di proteggerla, ma soprattutto di portare quei lipidi, quei grassi nei primi strati della parte del corneo, e quindi questo può dare una marcia in più. Quindi attenzione, rivolgersi casomai al medico di famiglia, al dermatologo, al farmacista, per avere qualcosa di un pochino più dedicato da utilizzare però costantemente, già prima e poi anche durante le ore lavorative. Quindi scegliere la crema adatta, metterla nel momento adatto, ma soprattutto, come ci chiedeva Doriana, ma quanto penetra, come fa a penetrare, possiamo essere tranquilli e sicuri che la crema che mettiamo sul viso, sulla pelle delle mani, arrivi, tra virgolette, là dove deve arrivare? Dobbiamo essere ben chiari: quando parliamo di un dermocosmetico non parliamo di un farmaco, quindi una delle prime funzioni del dermocosmetico è quella di non andare a interferire con, diciamo virgolette, la salute umana. Quindi attenzione, queste creme certamente penetrano a livello dello strato corneo, a livello di epidermide, danno dei segnali opportuni anche alle cellule che sono nel derma, ma naturalmente non devono penetrare lì dove c'è anche il circolo sanguigno, altrimenti ci ritroviamo in teoria ad aver applicato un qualcosa che poi può dare degli effetti metabolici di carattere generale. Allora queste creme che si adoperano hanno una loro funzionalità, certamente, sono ben studiate e calibrate per stimolare alcune funzioni, quindi sto parlando di stimolazione di funzioni, non di sostituzione della crema alle funzioni della pelle, quindi sicuramente penetrano lì dove devono lanciare i loro segnali, negli strati superficiali, hanno la loro efficacia, ma non devono entrare lì dove c'è il circolo sanguigno. Quindi sicuramente possiamo fidarci delle creme dermocosmetiche attualmente in commercio, perché ci sono delle normative e italiane e che vengono dalla CE che impongono l'uso di alcune sostanze, non altre, e solo a quelle concentrazioni. Quindi da quel punto di vista della sicurezza possiamo stare tranquilli. Solo si screpola la nostra pelle, ma prova dei brividi, la pelle d'oca, ma poi le scosse, gli spilli, c'è un mondo di sensazioni che si agita sopra e sotto la nostra pelle. Ne parliamo con il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è così, il cervello e la pelle hanno un rapporto bidirezionale, mi piace vedere la prima direzione, quella centrifuga, il cervello che con le emozioni parla attraverso la pelle d'oca, rapida, incontrollabile, con un ricordo, penserei proprio alla musica, che è un canale così arcaico e incontrollabile di emozioni. C'è una piloerezione, il muscolo pellicciaio proprio sotto la pelle si contrae e il cervello a decidere. Però il cervello non si fida della frontiera, la frontiera, la pelle è uno straordinario organo di frontiera e ha bisogno di sorvegliarlo, di presidiarlo, e utilizza perlomeno 3 ufficiali di collegamento, fibre velocissime a beta, fibre veloci a delta e fibre lente, insomma 3 tipi di autostrade per vederci chiaro e capire cosa accade in periferia. Questo spiega il legame stretto che spesso la dermatologia e la neurologia hanno. Vanno a braccetto. Professor Barbanti, ci sono delle volte in cui abbiamo la sensazione che la nostra pelle si muova senza che noi diamo l'input di farlo. Ad esempio, no? Sono le scosse, oppure la palpebra che balla. Sì, chiamiamole proprio vibrazioni sotto la pelle, quando sono microscopiche, quasi vermicolari, sono le cosiddette miochimie. Perché si vedono sulle palpebre? Innanzitutto la palpebra è quasi solo muscolo, non c'è grasso e quindi si vede con grande facilità. Ed è legata ad una condizione generale di iperecitabilità. Il nervo scarica sul muscolo della palpebra quantità maggiori della benzina chiamata acetilcolina ed ecco che come un motore che è un po' ingolfato, al contrario, prende troppo gas, la palpebra diventa iperattiva, è un fenomeno benigno. Altre volte abbiamo dei guizzi muscolari, si chiamano fascicolazioni, capita di vederti con lo stress, con la stanchezza, col freddo, specie sulle gambe, sulle spalle. Altre volte queste possono essere espressioni di malattie neurologiche, ma insomma sono fenomeni che possono capitare anche nel sano. Ma oltre alle vibrazioni c'è anche un calore sotto la pelle che può avere un'origine neurologica. Sì, ci sono delle persone ad esempio che soffrono di mal di testa che sentono proprio la pelle e il cuoio capelluto bruciare. Eh sì, quella che viene chiamata allodinia, la testa calda, vuol dire che i sensori del dolore sono tutti accesi, però consideriamo questa una eventualità quasi fisiologica. Non è fisiologica nella persona che ha avuto il fuoco di Sant'Antonio, malattia ovviamente della pelle e del neurologo, quando dopo l'infezione la nevralgia che rimane, la nevralgia post-erpetica, spesso è bruciante. Ma la pelle spesso ci fa sentire degli spilli, perché dico spesso, se ci addormentiamo su un braccio, il braccio lo sentiremo come pervaso da tanti spilli, oppure il formicolio anche, no? Il formicolio, la sindrome del tunnel carpale, anche questo è un fenomeno molto frequente, una patologia molto comune di tipo compressivo, ma a volte gli spilli rimandano i farmaci. Ci sono alcuni diuretici, nome l'acetazolamide, o alcuni antiepilettici, il topiramato, che come effetto collaterale fanno formicolare la pelle ed ecco ancora quindi che la qualcosa che con la neurologia ha a che fare attraverso la pelle si esprime, oltre ovviamente alle neuropatie. Ma vorrei toccare come ultimo punto le scosse a toccare la pelle, questa è un'evenienza fortunatamente non frequente ma molto tipica. Il soggetto con la nevralgia del trigemino, se sfiora la pelle, se un uomo per esempio nel radersi o se sfiora addirittura le mucose lavandosi i denti, fa partire delle scosse terribili. Insomma è un connubio, quello di nervi e pelle, molto intricato e molto interessante, senza dimenticarci però che esistono nella gran parte delle persone sensazioni cutanee sgradevoli che sono solo il frutto di piccole nevrosi, parestesie cosiddette, gente che va su internet e si scopre improbabili sclerosi multiple. Insomma, cerchiamo di non farci un processo, di parlarne con il medico, sapendo che cervello e pelle hanno un canale preferenziale e sono strette da una santa alleanza. Professor Barbanti, grazie per questo viaggio alla scoperta delle relazioni tra pelle e cervello. Io la saluto. Grazie, saluti a tutti voi. Il professor Monfrecola rimane con noi perché, professore, abbiamo così esplorato questa relazione molto stretta, abbiamo capito quali sono anche i nemici esterni della nostra pelle, abbiamo parlato di freddo, ma non è solo il freddo a mettere in difficoltà la nostra pelle, a volte sono contatti ravvicinati con sostanze o con tessuti ad irritarla. È un po' come succede a noi quando veniamo in contatto con persone che non ci piacciono, che a pelle, si dice proprio così, avvertiamo fastidiose e irritante. Allora ai nostri ascoltatori, prima di dare la linea ai mercati e al meteo, chiedo: fateci sapere se, quando, come e per colpa di chi la vostra pelle si irrita. Naturalmente come sa fare lei, quindi arrossandosi, diventando pruriginosa, ricoprendosi di macchioline o squamette. Capisco che l'immagine non è allettante, ma anche noi quando siamo irritati non siamo molto belli. 800 24 00 24 e ricordate, prendete le misure di questo abito straordinario che ha mille e più di una funzione che scopriremo insieme nel corso della nostra trasmissione. Essere e benessere. E siamo di nuovo insieme, oggi parliamo della pelle. Professor Monfrecola fa tante cose, se fosse una persona sarebbe molto operosa, però anche lei c'ha il suo caratterino, a volte si irrita, perde la pazienza. Sì. perde la pazienza quando viene aggredita, come tutti quanti noi d'altra parte. Se aggrediti rispondiamo in qualche maniera e la pelle lo fa alla sua maniera, cioè con fenomeni infiammatori, a volte molto marcati, con sensazioni come bruciore, prurito. E queste robe vanno sotto il nome di dermatiti da contatto, di cui forse i nostri radioascoltatori avranno sentito notizia. E attenzione però a non considerare di natura allergica tutto le dermatiti da contatto. Questo è un errore in cui si cade spesso. In sintesi, noi possiamo avere dermatiti da contatto che noi definiamo irritative e quelle che definiamo allergiche. Se ho un minuto le ma direi certo, ci fornisca qualche elemento in modo che possiamo un po' le prime, farci non un'autodiagnosi, ma insomma cercare di capire bene che cosa succede. Certo. Allora, le prime quelle da irritative sono dovute, diciamo così in soldoni, alla ripetitività e all'intensità di un contatto chimico. Faccio un esempio: i detersivi, dei saponi, dei coloranti, degli oli minerali. Allora, ci sono delle categorie professionali facili da intuire, per esempio i parrucchieri, baristi, meccanici, mettiamo tra queste anche le casalinghe, che per lavoro, ecco, per impegno, hanno comunque le mani continuamente a contatto con queste sostanze. Qui il sistema immunitario non è implicato affatto, cioè la sostanza non viene riconosciuta dalle cellule che sono i nostri soldati, quelli che ci difendono, ma semplicemente la pelle viene aggredita da queste cose e quindi i test dermatoallergologici in questo caso risultano negativi e la gente dice: ma com'è strano, è negativo il test ma io intanto ho il problema. Beh, il problema viene generato dalla ripetitività dell'aggressione. Mentre invece nelle dermatiti da contatto allergiche, le cellule del sistema immunitario riconoscono e poi memorizzano una più molecole a cui noi diventiamo allergici. Faccio un esempio ben noto ai nostri radioascoltatori. Prendiamo il nickel, una sostanza che è contenuta per esempio nelle bigiotterie, no? Le signore lo sanno, gli orecchini, altre cose di questo genere. Ebbene, questi oggetti possono far diventare allergica una persona. Oppure, per esempio, il potassio bicromato, sono quelle persone che lavorano nei cementifici oppure nell'edilizia. Ecco, in questo caso non avremo soltanto arrossamento, screpolature, ma avremo anche delle vescicole, avremo molto prurito. In questo caso il dermatologo può intuire che ci possa essere una base allergica e sottoporre poi il paziente a dei test che si chiamano test epicutanei, molto semplici da fare e che possono svelarci la reale causa di quella dermatite. A questo punto poi interviene tutto un procedimento preventivo e anche terapeutico che può portare la persona ad avere ovviamente un miglioramento, se non un successo definitivo sulla sua patologia. Consigli per far passare questa sorta di irritazione alla nostra pelle proteggendola, utilizzando ad esempio per noi che lavoriamo a casa anche con detersivi eccetera i guanti, ma a volte non basta, professore? Non bastano, perché i guanti a volte possono lasciare le mani un po' umide, come tutti quanti sappiamo, e quindi rendere la pelle, come dire, virgolette, più penetrabile, più porosa, più adatta a essere aggredita. E allora cosa fare? Limitare i contatti, se possibile, quando è possibile, a mettere delle creme barriera o ancora una volta delle creme liporestitutive, tradotto insomma un po' idratanti, che possono permetterci, naturalmente quando il fenomeno diventa poi particolarmente intenso, in questo caso. E certo, qua bisogna andare dal dermatologo e senza evitando anche di mettere creme, cercando magari mescolando più creme, perché poi il dermatologo alla fine ha grandi difficoltà a capire che cosa è successo su quella pelle. Mai fai da te, ricordiamo sempre che madre natura ci ha dato dei meccanismi di difesa naturali, se noi sbagliamo a intervenire non facciamo altro che interferire su queste difese naturali, quindi è preferibile non fare piuttosto che fare qualcosa senza averne cognizione chiara. 800 24 00 24, questo è il numero per imparare a prenderci cura della nostra pelle, per raccontare che cosa fa, per accettare anche le sue piccole imperfezioni, per raccontare come si lamenta, ma anche per rispondere alla domanda di oggi: quanto è estesa, quanto pesa e quanto è spessa? 800 24 00 24, abbiamo Alfredo che ci chiama da Varese. Buongiorno Alfredo e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie a lei della disponibilità. Ci racconti? Io penso che sia la superficie 4 metri quadri. Per quanto riguarda il peso, penso circa 8-10 kg, e per quanto riguarda lo spessore è variabile, perché abbiamo zone del corpo. È vero, è vero. Lo spessore è molto, molto sottile. Come ad esempio le palpebre. Le palpebre, e zone invece del piede più cornificate, tipo la suola plantare, dove giustamente c'è uno spessore maggiore, ma anche la zona addominale. Ad esempio. Senta, ma dovendo sparare un numero in questo range? Di... Io direi da pochi millimetri ad alcuni centimetri. Senta, non le posso dire le risposte esatte perché sto aspettando l'ascoltatore che riesce a darci i dati corretti, però professor Monfrecola, i dati che ci ha dato Alfredo non sono corretti. No, non sono del tutto corretti. Ecco, allora forse aspettiamo. Forse un po' in eccesso. Questo per dare un aiuto agli altri ascoltatori che possono rispondere all'800240024 o chiedere aiuti per la loro pelle. David da Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, volevo fare una domanda, ma delle macchie è possibile che essere un po' stafilanzio, nervoso, diano macchie dietro la schiena, all'altezza delle scapole? Una macchia marrone, prude, da prurito continuo. La domanda di David, professor Monfrecola, ci sono fiorfiori di ricerche e anche la saggezza del nostro pensiero è quello che la pelle, essendo una sorta di così barriera, un terreno su cui il cervello racconta anche le sue emozioni, si cambi, muti anche in relazione a periodi di stress, di ansia. Quanto c'è quanto può fare l'ansia e che ingrediente, che peso ha nella manifestazione di malattie dermatologiche? Sì, qui bisogna essere un tantino attenti in questo senso. Sicuramente tutto questo che è stress, ansia, come vogliamo definirla, può essere un cofattore, quindi qualche cosa che può a volte accentuare fenomeni infiammatori, però generati da altre cause. Ecco, quindi voglio dire, il problema c'è perché c'è un problema immunologico, metabolico, quello che sia, infettivo, quello che sia, e naturalmente la pelle reagisce in maniera infiammatoria. Se a questa infiammazione noi aggiungiamo anche un momento di stress psichico, ecco, è dimostrato che quell'infiammazione tende ad amplificarsi, a diventare più evidente, quindi come cofattore sì. Come unica causa no. Ecco, come unica causa no. Ci sono tante malattie che non lo sono assolutamente. Abbiamo sottolineato la relazione, il rapporto che lega questo feeling molto intenso che lega la pelle al cervello, ma ce n'è anche un altro, quello che lega la pelle al cuore, e ne parliamo con il dottor Maurizio Corradin, che è tornato a trovarci. Buongiorno finalmente. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori di Essere Benessere lo conoscono bene, medico esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Lefei Resort e uno dei nostri pilastri del Daily Lab. Essere Benessere. Dalla pelle al cuore. Adesso sto davanti a te. Dottor Corradin, qua ci sarebbe da ballare, un lento, ma noi parliamo di pelle, abbiamo detto anche i brividi, la musica fa venire i brividi, e noi parliamo della relazione che c'è e che la medicina cinese studia da anni tra la pelle e il cuore. Certamente, perché la pelle, come si suol dire, è lo specchio dell'anima, e l'anima per la medicina cinese sta nel cuore, quindi tutte le emozioni si manifestano sulla pelle, ma in realtà la pelle non è solo lo specchio dell'anima, è anche lo specchio del corpo, e funziona bidirezionalmente, cioè il corpo e l'anima e la mente si manifestano sulla pelle, ma la pelle attraverso i punti di agopuntura può modificare, può aiutare il corretto funzionamento del corpo, quindi è una sorta di barriera bidirezionale che permette, da un lato limita il rapporto con il mondo esterno, ma limita anche quello con il mondo interno. Quindi la pelle, da un lato, è la manifestazione di tutte le nostre emozioni. C'è un passaggio dei classici che proprio in modo particolare sottolinea che solo i grandi medici riescono a porre la diagnosi attraverso la pelle, osservandone il colorito e tutte le modificazioni che avvengono appunto sulla pelle. Ma come dicevo, la pelle è anche lo specchio del corpo. Per fare un esempio, sulla pelle ci sono i punti di agopuntura e questi possono essere ad esempio importanti in questo periodo, nel periodo immediatamente successivo in cui c'è la cosiddetta astenia primaverile. Ci sono dei punti, ad esempio, solo per fare un esempio, che sì, sono molto efficaci nel trattare la stanchezza, quella in magari difficoltà mattutina di mettersi in moto. Possiamo localizzarli, poi naturalmente noi non li utilizzeremo mettendo gli aghi, ma magari con una pressione, un massaggio. Sì, con un massaggio, il massaggio poi è un modo particolarmente importante per rilassare il cuore energetico. Per entrare in contatto con noi stessi prima di tutto e poi con il mondo che ci circonda, perché come dicevo è una barriera bidirezionale, è uno specchio bidirezionale. Allora i due punti che consiglierei di fare con questo piccolo micromassaggio, ruotando, stimolando questo punto con rotazione orario rapide con la punta del dito, del pollice oppure dell'indice o del medio, si trovano. Il primo è posto proprio al centro del torace, dove sì, mettiamo il dito per dire io. Il secondo è posto quattro dita sotto la punta della rotula. Contro la tibia, sulla faccia esterna della gamba. Questo è uno dei punti principali per trattare la stanchezza. Quindi noi andiamo sulla rotula, ok? Andiamo sulla rotula, quattro dita sotto la punta della rotula, sì, sul lato esterno contro la tibia, sì, e massaggiamo questo punto che si chiama tre strade. Massaggiamo questo punto per 30 secondi con rotazione oraria rapide e voilà, ci dà la possibilità di sentirci meno stanchi. Quindi noi possiamo fare contemporaneamente con un dito, con una mano, possiamo passaggiare il centro del petto. E con l'altro. Meno male che abbiamo due mani. Dottor Corradin, grazie, buona giornata. Nulla. Arrivederci. Grazie. E a proposito di punturine, di aghi, tra poco ne parleremo con la dottoressa Serri, anzi no, è già in linea con noi. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, sono buongiorno contenta, a tutti. C'è il professor Monfrecola in linea con noi. Oh, carissimo! Evviva! Piacere sentirti. Dermatologo. Ci vedremo anche tra poco, penso a San Diego. Fantastico, portate anche noi. Dottoressa, la dottoressa Serri la conoscete tutti, dermatologa, presidente di Skineco, scrive anche sul nostro Daily Lab, oltre che su numerose riviste. Insomma, dottoressa Serri, con il dottor Corradin parlavamo di agopuntura e mi venivano in mente gli aghi, ma io vorrei parlare di altri aghi, delle punturine che vengono utilizzate per spianare un po' la nostra pelle, le rughe, per riempire le rughe, per dare un pochino tono alla pelle che un po' cade, va giù. Insomma, vorremmo capire da lei che cosa servono e soprattutto come orientarci, perché le proposte sono tante, i nomi anche a volte sembrano un po' di fantasia. Ci dà una mano? Sì, effettivamente molti nomi sono di fantasia e le proposte sono davvero tantissime. Ma come sempre, quando ci si mette di mezzo il mercato, in questo caso il mercato della bellezza, non ci si capacita più. In realtà quando si parla di punturine si intende di tutto e di più. Nulla spiana le rughe. Quello che noi vogliamo, noi medici che abbiamo a cuore la salute psicofisica delle persone e da qua anche un miglioramento estetico, la prima cosa che noi vogliamo ottenere è un risultato soddisfacente, naturale, sottolineato tre volte, mai grottesco, ma soprattutto mantenere la salute psichica e fisica delle persone. Stavo che orecchie per che intendere Stati, intenda. Ecco, negli Stati Uniti sono stati fatti 16 milioni di trattamenti, non di punturine, ma di trattamenti di miglioramento estetico non chirurgico nel solo 2011. Quindi questi trattamenti stanno effettivamente aumentando. Però quando noi parliamo di punturine dobbiamo suddividere, perché ce n'è tantissimi tipi. È un po' il risultato vogliamo ottenere. Tenete bene a mente questo esempio. Quando le donne si truccano, vogliono essere più belle, lo fanno per essere più, per essere naturali, non per diventare dei mascheroni circensi. Ecco, lo stesso effetto in campo medico, in campo di miglioramento dermoestetico, lo vogliamo ottenere con punturine e trattamenti. Quindi ci sono punturine che ammorbidiscono e migliorano i contorni del viso, che ammorbidiscono le rugosità, che ricreano dei volumi in modo naturale laddove con l'invecchiamento vengono a mancare. E qui si usa acido ialuronico, che deve essere purissimo, di ottima qualità, quindi bisogna fidarsi a medici che diano esattamente il nome e il tag, cioè il tagliandino di quello che usano. Quindi questo possiamo chiederle, nome e tag, eh? Il tag, proprio sapere esattamente che cosa mi mette dentro, certo. Tenendo presente che se un medico non fa l'anamnesi, cioè la storia clinica del paziente prima di fare qualsiasi cosa, bisogna alzarsi in piedi e uscire dalla porta. E dire, dottore, la saluto, certo. Ecco. In secondo luogo esistono le biorivitalizzazioni o biorigenerazioni, che sono le punturine, tutti le chiamano le vitamine. Sì. Io inietto niente vitamine, io preferisco usare acidi ialuronici, si chiamano di tipo più idratante, di tipo emolliente, unito o meno ad amminoacidi. Le vitamine possono talvolta essere sensibilizzanti e queste servono per dare uno stimolo al fibroblasta. Il fibroblasta è quella cellula che produce tutto. Per dire, rifigliati fibroblasta. Sì, rifigliati, sono come un nutrimento interno. Quindi, poi abbiamo altri tipi di punturine. Io non eseguo questo tipo di trattamento, però lascio libera alla gente di scegliere, che sono quelle con la tossibotulinica. Queste servono invece per evitare le contrazioni dei muscoli. E quindi creano una piccola un paralisi. Farmaco, si inietta un farmaco, perché la tossina botulinica è un farmaco molto utilizzato in campo neurologico, quindi è un farmaco che serve per limitare le contrazioni dei muscoli. L'effetto collaterale, se fatto male e se fatto troppo, è l'occhio sbarrato, l'occhio cattivo, la palpebra un po' che scende, lo sguardo mefistofelico, per e cui quindi, anche qui attenzione, bisogna rivolgersi veramente a medici molto bravi. Allora, dottoressa Serri, vogliono tenere naturale. Dottoressa Serri, io devo salutarla, devo salutare anche il professor Monfrecola, le risposte non sono arrivate, risposte corrette, ci riproviamo domani, grazie a voi. Essere e benessere.